ero spaventato, passere tranquillo, ma quel giorno che cosa mi ha rotto la pace, e gabbia dentro mi. Cosa sia stanno me lo ricordo, e lo sta il desiderio, forse il destino te l'ha voluto, farmi far certi incontri, ma sta che la mia tranquillità viene a farsi benedire, ma sta che mi stagia me opprima. Però mi goda essere onesto, che sta roba forse la ma porta a fare un tuffo nella vita. La pace le bella far carità, ma non se vuol mia sempre restar. Indorme sali a ignorar la realtà, quanto sta che la me tranquillità vena farse benedir, quanto sta che guasaporado con le vita, e quanto sta che la me tranquillità vena farse benedir, sta che guasaporano con evitare.